Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti inizia la prima parte di Focus Economia di oggi. Ricordo a chi me lo sta scrivendo che sì, è confermata la durata del programma fino alle 18, lungo tutto il periodo di palinsesto estivo, come lo chiamiamo, quindi torneremo alle 18.30 col 31 agosto. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo non solo del voto sul prolungamento dello stato di emergenza, ma anche e soprattutto del voto sullo scostamento di bilancio, i 25 miliardi aggiuntivi che vanno sostanzialmente a sommarsi ai 25 del primo decreto, ai 55 del secondo e adesso 25 ulteriori, per un totale di oltre 100 miliardi di scostamento di bilancio decisi dal governo in questi ultimi sostanzialmente 3 mesi, aprile, maggio, giugno, 4 mesi. E c'è stato l'intervento del presidente Conte sia sulla proroga del stato di emergenza al 15 di ottobre. Conte poi ha negato che vi siano voci di un nuovo che vi sia l'ipotesi di un nuovo lockdown e ha criticato la confusione che si è creata. E poi però ragioneremo molto anche su la parte di scostamento di bilancio. Poco fa Fratelli d'Italia ha detto che si asterrà, ha detto noi saremo per votare contro ma per senso di responsabilità ci asterremo dalla votazione. Alle 20.30 inizia il Consiglio dei Ministri, dove si dovrà discutere anche e soprattutto del decreto agosto, quello che poco fa il ministro Gualtieri ha detto arriverà la prossima settimana, e dove vi saranno anche i soldi dello scostamento di bilancio, o meglio a deficit come sempre in questi casi, ma dello scostamento di bilancio. Chiaro che dal punto di vista politico la parte più delicata è al Senato, perché lì la partita, sono 160 i senatori necessari per il via libera al nuovo scostamento di bilancio. Ricordo appunto che con questi 25 miliardi il governo deve prorogare la cassa integrazione e anche i sussidi che vuole erogare nella seconda metà dell'anno. Una parte grossa, come ricordavamo ieri, è relativa proprio alla cassa integrazione. Perché è delicato al Senato? Perché per l'articolo 81 della Costituzione, per ottenere uno scostamento di bilancio, come è già avvenuto, eravamo in pieno Covid, in pieno lockdown da Covid, occorre la maggioranza assoluta in un voto di entrambe le Camere. Per cui lì alla Camera metti assieme 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi Uguali, Italia Viva, i voti sono più che sufficienti per raggiungere i 316 necessari. Più delicato arrivare ai 160 voti, ripeto, al Senato. Per quello che riguarda altri temi, allora si sta arrivando al conto alla rovescia per l'inaugurazione vera e propria del nuovo ponte Morandi, che si chiama Ponte Genova-San Giorgio, il 3 agosto, e quindi a meno di 2 anni dalla tragedia che causò 43 vittime, il viadotto, che lo ricordo collega la 10 con la 7, sarà pronto. Poi un'attesa ancora di qualche giorno, infine il 5 agosto sarà aperto al traffico. Lo dico perché ne parleremo con chi ha coordinato tutti i lavori, e mi riferisco al RINA, e per capire cosa la RINA ha valutato la fattibilità tecnica del progetto e ha, diciamo, fatto da coordinatore appunto con i vari soggetti che si sono occupati di realizzare il ponte. Ma lo dico perché molte volte viene utilizzato il ponte di Genova come modello, e vorrei capire se in realtà è un modello oppure rappresenta nel bene, ma un'eccezione nel bene, perché i tempi di realizzazione sono stati per questo paese in generale oggettivamente da record, soprattutto per questo paese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, non ci sono tantissime notizie oggi di carattere internazionale. Faccio notare che il Parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggiore controllo sui social media, e quindi Facebook, Twitter, YouTube e non solo dovranno avere un referente locale che vigilerà sui contenuti. Amnesty International dice che la legge antisocial è censura. Questo nel giorno in cui Mark Zuckerberg si è difeso davanti al congresso nell'audizione, dicendo: Facebook è americana, che crediamo nella democrazia, nella libertà di espressione, non ci sono garanzie che questi valori vincano. La Cina, ad esempio, costruisce la sua versione di internet su valori diversi ed esporta questa visione in altri paesi. Per quello che riguarda sempre le notizie di carattere internazionale, faccio notare che il PIL di Hong Kong, che per carità non è determinante a livello mondiale ma è significativo, ha accusato un crollo annuo nel secondo trimestre del meno 9%. Nel frattempo a Hong Kong la situazione per il coronavirus sta diventando pesante, il sistema ospedaliero potrebbe collassare, è l'allarme lanciato dalla governatrice Carrie Lam, che ha invitato oggi gli abitanti a restare a casa. La città, ha detto, è sull'orlo di un focolaio di comunità su larga scala. Continua a registrare più di 100 infezioni al giorno, quando un mese fa le infezioni al giorno, i nuovi positivi, erano solo 10, una media di 10 al giorno. E per la prima volta anche in Giappone si è avuto un numero di contagi giornalieri che ha superato quota 1000, e la situazione sta diventando pesante soprattutto nei grandi centri urbani. Lo dico perché chiaramente noi abbiamo poi la visione europea e italiana, ma la situazione a livello pandemico mondiale è ancora molto molto pesante. Per quello che riguarda invece l'Italia, segnalo che siamo a 150 punti base come spread, quindi poco mosso. Abbiamo collocato 7 miliardi di botto, dove il tasso è tornato a essere negativo ai livelli pre-Covid, meno 0,27%, quindi chi presta soldi all'Italia a 6 mesi accetta di avere un rendimento negativo, cioè di ritirarne meno, per farmi capire, ne ha collocati 7 di botto a 6 mesi, la domanda era di 12 miliardi, quindi buona la domanda rispetto all'offerta. Ancora per quello che riguarda contratti, oggi c'è un nuovo dato dell'Istat, non c'è stato nessun nuovo accordo sui contratti collettivi nazionali tra aprile e luglio, mentre uno è scaduto, quello dei tessili e del mondo vestiario appunto, e maglierie. Ci sono in attesa del rinnovo contrattuale 10 milioni di dipendenti, questo alla fine di giugno, l'82% del totale. In tema di lavoro, oggi un rapporto e uno studio fatto da INPS e Banca d'Italia ha stimato che nel mese di marzo e aprile oltre la metà delle imprese italiane ha fatto uso della cassa integrazione, ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. L'utilizzo è risultato più elevato nei settori sottoposti al lockdown in marzo e aprile, ma anche nei settori in cui i livelli produttivi e il fatturato non sono diminuiti. L'utilizzo della cassa integrazione ha coinvolto una quota significativa di imprese, il 20% nella manifattura e il 30% nei servizi. E già ieri il presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, Pisauro, aveva fatto notare che incrociando i dati della fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate con i dati di ricorso alla cassa integrazione, un terzo delle ore di cassa integrazione o anche in deroga o fondi della bilateralità è stato utilizzato da imprese con perdita di fatturato superiore al 40%, ma un quarto delle ore di cassa integrazione, quindi siamo sostanzialmente al 25% del totale, è stato utilizzato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato. dicevamo della proroga dello stato di emergenza che è passata con 286 voti a favore, 221 contrari, 5 astenuti anche alla Camera. Ha detto Conte, il governo si atterrà all'indicazione della proroga il 15 di ottobre, e poi ha aggiunto, si è creata confusione sui social, vi sono state voci del tutto infondate di un nuovo lockdown. Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza, lo si dica chiaramente in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione con la popolazione, perché oggi, leggendo alcune pagine, alcune risposte sui social, c'è qualcuno che ci sta seguendo, qualche cittadino che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi ritornare al lockdown, quindi significhi misure più restrittive dal 1 agosto. Non è affatto così. E poi Conte ha aggiunto, ad alcuni sfugge, che lo stato di emergenza per motivi sanitari è previsto dalla legge. Ha spiegato anche che cosa, diciamo, questo comporti come in termini di operatività. Ieri mattina, come è noto, si è tenuto un Consiglio dei Ministri nel corso del quale abbiamo esaminato il tema dell'eventuale proroga dello stato di emergenza, valutando in tutti i dettagli le relative implicazioni. Ricordo che la dichiarazione dello stato di emergenza, e questa cosa purtroppo anche dal dibattito che ieri c'è stato al Senato, da una parte almeno degli interventi, sembra ancora sfuggire. Ricordo che lo stato di emergenza è previsto dal Codice di Protezione Civile, quindi una fonte di rango primario di carattere generale, peraltro la cui legittimità è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale. La dichiarazione dello stato di emergenza, come da previsione del Codice di Protezione Civile, costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e di facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto e in particolare per far intervenire il sistema della protezione civile. Tra questi poteri, infatti, quello certamente più intenso è il potere di ordinanza, che è uno strumento fondamentale di cui, come sapete, dispone la protezione civile proprio per realizzare interventi che in assenza di quella specifica precondizione non potrebbero essere attuati, quantomeno non attuati con analoga speditezza. Allora, chi mi dice ma non fate sentire anche, certo che adesso faremo sentire anche la Meloni e la Casellati, Presidente del Senato, però vorrei concludere questa sintesi, diciamo, dell'intervento del Presidente del Consiglio Conte, che ha chiarito in tema di DPCM. Allora, DPCM sono stati lo strumento principale utilizzato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per durante il lockdown, durante la parte più emergenziale. Sono previsti dallo stato di emergenza e permettono appunto di, non è necessario che vengano approvati dal Parlamento, mentre i decreti legge devono essere poi convertiti in legge con un voto parlamentare. Però Conte ha chiarito, visto che sui DPCM, sul ricorso ai DPCM c'è stata molta polemica anche da parte delle opposizioni, ma anche da parte della Presidente del Senato, che adesso ascolteremo, la Casellati. Conte ha chiarito che comunque per poter fare i nuovi DPCM servirà un decreto legge. Questa accusa di volere evidentemente prorogare lo stato di emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è frutto di un evidente equivoco. La proroga dello stato di emergenza non incide sul potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare decreti. Lo stato di emergenza è un presupposto di fatto, ma non la fonte di legittimazione formale che si rinviene invece, l'ho già detto, nei decreti legge, quindi nella normativa di rango primario. Il potere di adottare i DPCM è al momento correlato alla data del 31 luglio, termine di cessazione dello stato di emergenza, non in ragione quindi di una formale connessione tra DPCM e stato di emergenza, ma perché questo espressamente prevede la fonte di rango primario legittimante. E veniamo al Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha detto vi è stato un ricorso esagerato ai DPCM emanati senza preventiva e dovuta consultazione con un voto del Parlamento. Vi sono stati troppi ricorsi alla fiducia, a rischio la democrazia parlamentare, e poi ha detto sul DL rilancio, quello che ho chiamato ristoro, insomma quello da 55 miliardi che è arrivato a maggio, ha detto non è immaginabile che su un provvedimento di circa 300 articoli come il decreto rilancio, che è sostanzialmente una manovra di bilancio, beh, aggiungo io, ne vale anche due, visto che le nostre manovre valevano sui 20-25 miliardi di solito, però non è immaginabile, ha detto la Casellati, che su un provvedimento di circa 300 articoli il Senato non abbia toccato palla. Sono sfide che il Paese può vincere se il Governo e il Parlamento sapranno fare la loro parte. E però necessario che ciò avvenga nel rispetto delle reciproche prerogative e dei ruoli che la Costituzione affida a ciascuno. E la Costituzione dice che le Camere sono il centro dell'azione legislativa e il Parlamento l'interlocutore primo e insostituibile del Governo. Una questione di metodo democratico, su cui pesa certamente l'aver gestito tutte le fasi dell'emergenza con un ricorso esagerato a DPCM emanati senza preventiva e dovuta consultazione con un voto del Parlamento, ma su cui grava soprattutto aver sostanzialmente privato una delle due Camere della possibilità di incidere realmente sui principali decreti legge, anche di natura economica, e su cui grava il ricorso troppo frequente al voto di fiducia come strumento ordinario per la loro approvazione. Così viene meno la democrazia parlamentare, e cioè l'equilibrio tra il principio della sovranità popolare, di cui sono garanti entrambe le Camere, e la responsabilità dell'azione di governo. Non è immaginabile che su un provvedimento di circa 300 articoli come il decreto rilancio, che è sostanzialmente una manovra di bilancio, il Senato non abbia toccato palla. E appunto, dicevo, anticipavo anche l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera, sempre sullo stato di emergenza. Ha detto la Meloni, questo provvedimento vi serve sostanzialmente per consolidare il governo. Quella della quale vi state occupando non è la salute degli italiani, ma è la salute del vostro governo, perché lo stato d'emergenza vi serve per consolidare il potere, perché lo stato di emergenza vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli. Questo è quello che voi state chiedendo al Parlamento della Repubblica Italiana, e non si può fare finta che sia un'altra cosa. E dopo il meteo affronteremo invece il tema dello scostamento di bilancio, che dicevo necessita di una maggioranza qualificata ed è più critico al Senato. Ancora un paio di notizie per quello che riguarda, poi arriveremo alle dichiarazioni di Gualtieri, visto che poco fa ha detto che ha atteso un rimbalzo del PIL nel terzo trimestre del 15% rispetto a quello precedente, però poi bisogna guardare anche il tendenziale, cioè quanto sarà il PIL nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre del 2019. Comunque in questo momento ci metterei la firma per un più 15% trimestre su trimestre, che sicuramente sarà parziale come recupero, ma nessuna previsione in questo momento ci dà un recupero nemmeno nel 2021, purtroppo, di quello che dovrebbe essere il crollo del PIL italiano quest'anno, che è stimato tra il 9 e l'11%, poi la Banca d'Italia dice, a seconda di una seconda ondata, dal 10 al 13%. Ecco, non voglio neanche nominarla la seconda ondata. Invece, per quello che riguarda altri elementi, il ministro Patuanelli oggi ha detto che stanno per essere firmati due decreti attuativi relativi al cosiddetto super bonus al 110% del DL rilancio, e quindi la firma avverrà nelle prossime ore. E poi che il super bonus, le risorse per il super bonus vi saranno e proseguiranno con l'arrivo delle risorse europee. Faccio notare un altro elemento invece: c'è una grossa tensione, come sapete, su alcuni paesi dell'est, in primo luogo Romania, ma non solo, e stanno facendo a Roma, Tiburtina, hanno adottato il sistema non solo del sierologico ma anche dei tamponi. Perché ne parlo? Perché non è un mistero per nessuno che i lavoratori rumeni e anche bulgari oltre che lavorare in tanti settori, perché in realtà non voglio fare stereotipi, ma insomma anche nel mondo delle colf, delle badanti, hanno un peso molto grosso nel nostro mondo agricolo. E allora il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha inviato una lettera al ministro Speranza chiedendogli dicendo che le imprese che aderiscono a Coldiretti sono da subito disponibili a farsi carico dei costi per sottoporre al tampone i lavoratori stranieri, in modo da dare loro la possibilità di partecipare all'operazione di raccolta, chiaramente se il tampone dovesse essere negativo. Lo ha raggiunto la nostra Raffaella Calandra. Soprattutto per quanto riguarda la manodopera stagionale, questi sono i paesi che maggiormente noi utilizziamo per avere una tempestività rispetto alle esigenze delle nostre imprese, non avendo oggi strumenti di carattere nazionale che ci permettono di reperire manodopera in modo veloce proprio nel paese e in questo caso cittadini italiani. Noi vogliamo assolutamente tutelare i cittadini italiani e i nostri imprenditori, quindi chiediamo al ministro di poter utilizzare lo strumento dei tamponi. Certo, e le aziende sono pronte a farsi carico delle spese dei tamponi? Assolutamente. Quanti sono i braccianti che arrivano da questi paesi dell'est come Romania, Bulgaria, che in questo momento sono in una fase di emergenza sanitaria molto critica? Sono circa 100.000 persone che vengono utilizzate nell'arco dell'anno, quindi questi sono i numeri ai quali si sta facendo riferimento. Allora, così appunto Prandini, speriamo, mi sembra una proposta di assoluto buonsenso. Altro tema che trattiamo tutti i giorni, ma temo che sarà anche peggio nelle prossime settimane, è la scuola. Allora, le regioni chiedono di avere certezze e garanzie riguardo alle risorse, l'organico e la tempistica per la ripartenza delle scuole. Poco fa il ministro Azzolina ha detto: il tema dell'organico è centrale, abbiamo bisogno di docenti e personale atta per poter operare. Per questo abbiamo chiesto al MEF oltre 80.000 assunzioni, al Ministero dell'Economia e Finanze a tempo indeterminato per i docenti. Grazie alle risorse stanziate con il decreto rilancio avremo più docenti e atta, cioè il personale non docente, da distribuire sul territorio. Il Ministero sta lavorando in questo ruolo alla distribuzione delle risorse degli uffici scolastici regionali. A giorni saranno formalizzate. Sul tema scuole, allora c'è stata la novità, tema banchi, attrezzature scolastiche. Arcuri, il commissario per l'emergenza Arcuri, ha prorogato la consegna dei banchi al 12 settembre per i 3 milioni di banchi monoposto, tradizionali e innovativi con le rotelle. Ieri abbiamo chiarito con, abbiamo ascoltato il più grande produttore di arredamento per ufficio scolastico dire che è impossibile arrivare a una consegna. E faceva l'esempio di quanto servono per 200, siccome i lotti sono fino a 200.000, devono essere meno 200.000 banchi, se ricordo bene erano 33 tir di acciaio e 43 tir di materiali di trucciolato per realizzare questi banchi. Questo è per realizzare 200.000 banchi. Ora il tempo a mio avviso non c'è, però Arcuri ha prorogato fino al 12 settembre. Federlegno ha detto che la pezza è peggiore del buco, ma siamo costretti. Leggiamo che la data sul sito che è stata rivista il bando per la realizzazione di banchi monoposto e con rotelle, ma la pezza è peggio del buco. Davvero, si chiede Federlegno Arredo, il ministro Azzolina e il commissario Arcuri pensano che slittare di 5 giorni possa essere la soluzione. I quantitativi non sono certo diminuiti e le ore in una giornata non siamo ancora riusciti a moltiplicarle. Non ci resta che prenderne atto e sottolineare come una mala gestione e il ritardo mostruoso nell'indire il bando siano i soli veri responsabili di questo pasticcio. I fatti dimostrano che questa è davvero una missione impossibile. Nel caso in cui il governo abbia già rapporti con fornitori esteri, a loro facciamo i nostri auguri, perché l'opera è titanica, rischiosissima e a nostro avviso impossibile. Io devo dire una cosa: la definizione di ritardo mostruoso la condivido al 100 o al 110%, perché come fai a ordinare 3 milioni di banchi adesso che devono essere consegnati entro il 12 di settembre, ma a decidere tutto a inizio agosto? Che cosa hanno fatto al ministero in questi mesi? Per me resta il mistero del ministero della Azzolina, al di là di dirci plexiglass, non plexiglass, distanza di un metro dalla bocca a bocca, va bene, tutte cose che potevano essere dette prima. E così come se servivano i banchi per il distanziamento, perché molti banchi non sono monoposto, non non bisognava essere un genio per capire che la cosa potevi chiederle anche a giugno, iniziare a fare i bandi di gara a giugno e luglio, tanto la scuola prima o poi avresti dovuto comunque riaprirla. Sentiamo Arcuri dire che la riapertura in sicurezza è il presupposto per recuperare la normalità. La riapertura in sicurezza delle scuole a partire dal prossimo mese di settembre credo debba essere condiviso da tutti, essere un presupposto importante o molto importante perché la nostra società tutta possa recuperare accettabili livelli della normalità che purtroppo in questa drammatica emergenza ha dovuto accantonare. Sì, vabbè, non è che abbia detto qualcosa di sbagliato Arcuri, è che di una tale banalità quello che ha detto. Ma non, cioè, a me interessa sapere veramente avere una risposta anche ai produttori, possono non essere solo produttori italiani, ci mancherebbe, ma se i produttori dicono che non ce la fanno, ieri, se no è facile ascoltare l'audio di ieri, se riusciamo a riprenderlo, perché cioè, se ti dicono che non ce la fanno, la risposta deve essere troviamo un'altra soluzione. Qual è il numero esatto di banchi? Non lo so, inventiamoci delle soluzioni tampone nel momento in cui devono, i banchi devono essere consegnati. Ho visto che a Roma il cardinale vicario De Donatis con la sindaca Virginia Raggi e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale hanno firmato un protocollo d'intesa che formalizza la collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica. Si potrà fare anche lezione nelle parrocchie, negli spazi ecclesiastici, nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile. Riascoltiamo che cosa ha detto il più grande produttore di appunto arredamento per scolastico e per ufficio ieri, alla nostra Laura Bettini, l'altro ieri, alla nostra Laura Bettini, proprio sui tempi. Così parla qualcuno che i banchi li fa. Dai. La mia società, insieme ad altre società, siamo associati a Federlegno, perché in questi momenti dobbiamo avere un'unione e capire bene il da farsi. Per fare 200.000 pezzi ci vuole 1 milione di chili di acciaio. Che lei in questo momento non ha, nel senso che lei non pensava di dover fare 200.000 pezzi, no? Nessuno, certo. Può avere, anche perché io faccio una gara, ci sono i competitors, quindi non è detto che io vinco la gara. Solo se io lo so prima, sono da solo, allora mi posso approvvigionare di 1 milione di chili di acciaio. Ma non sapendolo, quindi il giorno 10 di agosto devo andare dal fornitore di acciaio e chiedere di farmi avere 33 autotreni di materiale da lavorare. Non so chi al mondo possa fare questo, non in Europa, perché il ministro dice una gara europea. Io non lo so, solo se io lo faccio prima posso riuscire a organizzarmi. 33 autotreni di acciaio, cioè solo così a vederli, sono tantissimi. 44 autotreni di pannello truciolare. Per fare questo lavoro non è facile. Io ho sentito tutti i fornitori. I fornitori in questo momento, prima si sono dovuti fermare, ma adesso sono pieni di lavoro. Loro consegnano a 4 settimane. Abbiamo avuto contatti con la segreteria del commissario straordinario, gli abbiamo fatto notare questo, come Federlegno. L'ha detto il presidente di Federlegno, cioè non io. Non ci hanno voluto ascoltare, ma nostra non è una polemica. Noi vediamo nel mondo reale, prima di fare un lavoro, sono un imprenditore, mi devo informare per rispettare gli impegni che vado ad assumere, anche perché poi ci saranno dei risarcimenti di danni se io non garantisco quella merce quel giorno, perché le scuole non le potranno aprire. Nel frattempo noi non è che stiamo a guardare il cielo, noi lavoriamo con tutte le amministrazioni italiane, che non è che questo tipo di gara ha bloccato gli acquisti. I vari comuni italiani hanno fatto già gli ordini e abbiamo firmato dei contratti con queste amministrazioni. Poi in 20 giorni, è troppo breve. Ma come dicevamo anche ieri, giustamente, se tu devi comprare tutti questi milioni di chili di acciaio, devi essere sicuro che devi aver vinto il contratto, non fai un acquisto prima. Ma guardate, qualcuno mi scrive, io vivo in Francia, mi scrive un ascoltatore, ma non è vero che in Francia nessuno, hanno chiesto solo la mascherina in classe, ma non i banchi monouso. Guardate, non lo so, a me basta che il duo Azzolina-Arcuri ci dica esattamente che, perché non vorrei arrivare con questa, No, sceneggiata. Ah, ma noi abbiamo fatto il bando. Quelli ti dicono non ce la fanno a produrre. È chiaro il concetto produrre, cioè mettere assieme il trucciolato con l'acciaio, col ferro che serve? Il ferro, non faccio io produrre, ma ci arrivo anch'io. Se ti dicono che non ce la fanno produrre, che altra soluzione si trova? Non vorrei arrivare a fine agosto, sentirmi dire, del resto noi il bando l'abbiamo fatto, è andato deserto, poca roba, pochi banchi, e quindi... Metto. Focus Economia. :17:41 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sì, meglio sorridere in alcuni casi, ma ha scritto un ascoltatore: la soluzione tampone è prendere il banco, segarlo in due e aggiungere le due gambe per ogni banco, così si risparmia. Ecco, sì, iniziamo a segare i banchi. Devo stare zitto oggi, segherei qualcos'altro. Allora, Dino Peso del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ecco. Allora, l'altro fronte del governo, superato quello del voto sul stato di emergenza, è quello al Senato, perché l'ho spiegato anche prima, perché per lo scostamento di bilancio, anche prima è servito, quindi quello da 20 miliardi, quello da 55 miliardi di DL rilancio, serve il voto qualificato della Camera, delle Camere. E se alla Camera il problema non c'è perché ci sono 316 voti tranquillamente, al Senato la partita è più complessa, ce ne servono 160 voti dei senatori. Questo per quello che riguarda i 25 miliardi del nuovo scostamento di bilancio, che diventeranno l'asse portante del decreto agosto, sia per rifinanziare la cassa integrazione che altro. 10 miliardi infatti al lavoro, 4 miliardi per il rinvio delle scadenze fiscali, 5 miliardi per gli enti locali, 800 milioni al fondo per le piccole e medie imprese, 1 miliardo alla scuola. E oggi ne ha parlato anche il ministro Gualtieri al Senato e ha toccato di nuovo l'entità dello scostamento. Considerato che il contesto economico risente ancora fortemente della fase del lockdown e della debolezza della domanda sia interna sia soprattutto estera, è necessario proseguire con le misure di sostegno all'economia, prolungando e rafforzando alcune di quelle già in vigore e al tempo stesso rendendole gradualmente più selettive e accompagnandole sempre più con interventi più mirati al sostegno della crescita e dell'occupazione. Per questo il Governo ha presentato al Parlamento una nuova relazione, ai sensi della legge, con la quale chiede l'autorizzazione per finanziare queste nuove misure a ricorrere all'indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico di 25 miliardi per l'anno 2020, di 6,1 miliardi nel 21, di 1 miliardo nel 22, di 6,2 miliardi nel 23, di 5 miliardi nel 24, di 3,3 nel 25 e di 1,7 miliardi a decorrere dal 26. E questi scostamenti anche per gli anni successivi al 2020 sono parte integrante delle misure che intendiamo prendere, che riguardano in particolare il sostegno alla prosecuzione delle misure sulla liquidità e la rimodulazione di alcune scadenze fiscali. Allora, Dino Pesole, sto leggendo le agenzie perché è arrivato l'annuncio sia che Fratelli d'Italia si asterranno dal voto e poco fa anche Forza Italia sul DL agosto, e quindi si asterranno sul nuovo scostamento, non voteranno contro. Questo dovrebbe, dicono sia Fratelli d'Italia che Forza Italia, per senso di responsabilità, pur essendo contrari allo scostamento. Noi faremo le nostre proposte, saremo disponibili a non avere atteggiamenti che assomigliano all'ostruzionismo. E Dino, questo dovrebbe facilitare, diciamo, il percorso dello scostamento di bilancio se si astengono Fratelli d'Italia e Forza Italia? Sì, perché alla fine, differentemente dai primi due voti, quindi sul primo decreto da 20 miliardi e sul secondo da 55, quando ci fu sostegno esplicito, questa volta politicamente l'astensione ha un altro significato, ma non è un voto negativo, quindi sostanzialmente dovrebbe essere garantita la procedura che, come prevede l'articolo 81 della Costituzione, appunto va votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, e dunque alla Camera non ci sono problemi, al Senato l'astensione è qualificata diversamente, ma credo che comunque i voti della maggioranza dovrebbero essere sufficienti, poiché appunto ci sono, e quindi in caso di voto negativo sarebbe stato un problema, anche se poi Forza Italia ha assunto un atteggiamento, come sappiamo, un po' differente rispetto agli altri. Sì. Ecco, faccio notare che oggi sul Sole 24 Ore i leader dell'opposizione, quindi Matteo Salvini, Giorgio Meloni e Silvio Berlusconi, hanno scritto una lettera aperta al Premier Conte, appunto pubblicata sul Sole 24 Ore, in cui dicono: va bene prorogare la cassa integrazione, devo sintetizzare, ma bisogna intervenire con due linee d'azione: l'esenzione per gli esercenti di attività di impresa dal versamento del secondo acconto IRPEF IRES per l'anno 2020, la riduzione del 30% del coefficiente del calcolo IMU, e invece sul lavoro riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Oggi però di nuovo Salvini si è lamentato che non è arrivata nessuna risposta alle loro richieste. Visto che oggi si parlerà sia in Senato che alla Camera di scostamenti di bilancio e mille miliardi, al di là della posizione della Lega del centrodestra compatto che è evidenziata in una lettera con proposte e richieste sul Sole 24 Ore di oggi, ovviamente da parte del governo e dei partiti della maggioranza la risposta è stata pressoché pari allo zero. Silenzio e mutismo e sordità totali, quindi se si ritengono autosufficienti facciano, ne risponderanno al Paese, però intanto come Lega ovviamente non aspettiamo le risposte che non arrivano da altri, presentiamo con i nostri gruppi parlamentari alcune proposte già depositate, documentate, incardinate. Allora, Dino, l'opposizione lamenta che non viene ascoltata, appunto ricordava Salvini la lettera di oggi sul Sole 24 Ore. Da quello che ho capito però il DL agosto, Gualtieri lo abbiamo anche ascoltato, dovrà rifinanziare sostanzialmente la parte liquidità, la parte cassa integrazione, i soldi delle regioni, i trasferimenti. Mi sembra che a questo punto manchi, al di là del DL agosto che è un rifinanziamento, ma anche a questo punto però, e l'attesa per il governo sarà questa, un progetto un po' più di respiro. Cioè qui stiamo andando a rifinanziare e non si poteva fare altrettanto con i vari DL, prima 25, poi 55 miliardi, adesso 25, misure d'emergenza, cassa integrazione, fondi alle regioni, la copertura per i mancati versamenti fiscali. Poi però bisogna fare anche quella che una volta si sarebbe chiamata una manovra vera e propria, no? Bisognerebbe spiegare un po' anche a Salvini che in effetti questo terzo decreto, lo si può anche contestare ovviamente, però rientra, come tu dicevi, ancora nel solco dell'emergenza. Si tratta di attivare fondi in deficit che sostanzialmente per rifinanziare la cassa integrazione e poi altri provvedimenti che comunque sono sostanzialmente dominati dall'emergenza. Quello che il centrodestra propone nella lettera che è stato pubblicato oggi sul Sole 24 Ore è un disegno un po' più ampio che credo possa essere comunque considerato e discusso entro la data del fine settembre, metà ottobre, quando il governo dovrà presentare a Bruxelles il suo piano per la ripresa, cioè quello cui andranno agganciati i fondi del Recovery Fund. Quindi in quella sede, se c'è fosse volontà politica, credo che alcune istanze del centrodestra potrebbero essere quantomeno discusse. Poi non so se si potrà arrivare all'anno bianco fiscale che propone, forse insomma è, non si sa capire cosa vuol dire, è un tema fondamentale, cioè alcuni versanti dell'imposta già sono stati sostanzialmente sospesi. Poi è ovvio che non è che si possono sospendere all'infinito, perché sennò poi le pagasse l'erario, come si fa? No, però tu hai fatto bene, ti sentivo male nell'ultimo passaggio, ma hai fatto bene a ricordare che un conto è questo decreto di agosto, che è sostanzialmente un decreto emergenziale, come furono quello rilancio e quello... E quello cos'era, Salvitare, non mi ricordo più il nome, Cura Italia, cioè decreti per finanziare cassa integrazione, dare i soldi alle regioni che non stanno incassando e dare, mettere soldi nelle casse dello Stato perché alcune scadenze fiscali sono state rinviate. Poi però bisognerà, non è tanto solo il tema dell'assistenzialismo, certo, ma bisognerà andare nelle prossime manovre a una visione ancora più dettagliata, visto che c'è l'ipotesi di continuare per esempio col bonus autonomi solo per alcune categorie, il turismo e spettacolo, per esempio. Già quella sarebbe un'indicazione, non trattiamo tutte le categorie nello stesso modo, andiamo a verificare ancora meglio l'utilizzo della cassa integrazione dopo quello che ha detto ieri l'ufficio parlamentare di bilancio, e andiamo a distinguere anche da settore a settore, da fatturato a fatturato, perché alcune aziende stanno fatturando mese su mese come un anno fa, altre manco lontanamente, e parlo non solo di manifattura ma anche di servizi. Grazie intanto a Dino Pesole. Ultimo tema che vorrei affrontare è il countdown, il conto alla rovescia per l'inaugurazione del ponte di Genova San Giorgio, 3 agosto inaugurazione, 5 agosto potrà essere percorso il viadotto sul Polcevera. Ricorderete, meno di 2 anni fa, 43 vittime e l'inchiesta della magistratura e le accuse fortissime all'Autostrada per l'Italia per la cattiva e non gestione del ponte, che da lì poi si è innescato tutto il quanto è avvenuto su Autostrade per l'Italia. Il 18 dicembre 2018 le società Salini in pregiro e Fincantieri si aggiudicavano l'appalto per la costruzione del ponte, 202 milioni di euro in un anno, mentre lo sviluppo della progettazione esecutiva veniva affidato a Italfer, la direzione e supervisione dei lavori di demolizione e costruzione veniva affidata alla società di certificazione Rina con un importo di 14 milioni. Ringrazio quindi l'amministratore delegato di Rina Consulting, Roberto Carpaneto, buonasera, per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera dottor Barisoni, buonasera. Il via ai lavori è stato dato il 22 marzo 2019, 24 ore al giorno si è lavorato, a novembre, ottobre c'erano numerose allerte rosse, piogge torrenziali, mare grosso, che hanno ritardato ma non fermato l'arrivo dell'acciaio da Castellammare di Stabia, poi addirittura un incidente nel cassone della Pila 13, poi anche il rischio lockdown per il coronavirus. Insomma, è stata una costruzione in salita, il nuovo ponte ha 18 pile, 7 in più rispetto al Morandi, si è allargata la carreggiata da 18 metri a 30 metri, due corsie da 3,75 metri per senso di marcia e due corsie di servizio, prima erano assenti, da 3,5 metri, un ampio spartito di traffico lungo largo 2,60 metri in mezzo, ed è leggermente più corto rispetto al Morandi, 1067 metri contro i 1182 metri. La vera novità è la facilità con cui potrà essere ispezionato, che era il problema del Morandi, non si riusciva a capire cosa stesse succedendo. Ai tiranti le chiedo una cosa molto semplice, Carpaneto: è un modello che tutti abbiamo elogiato, ma è un modello esportabile oppure è stato, visto che voi avete coordinato, diciamo, tutta l'attività dei lavori, oppure è un modello che, mutatis mutandis, ma può essere esportato anche per altri lavori pubblici? Assolutamente sì, direi. Guardi, anzitutto la ringrazio per la precisione di tutte le informazioni, la vedo informatissima sulle caratteristiche del nuovo. Beh, ogni tanto prima di andare in onda studio, poi Barbara Bianchi mi dà una mano nel preparare la maschera. Prego. E dicevo, sicuramente sì, la chiave è stato sicuramente quello che lei ha citato, cioè il project management che Rina ha svolto, e che è una, di solito, una funzione che non in tutti gli appalti pubblici, anzi direi quasi mai, non è mai stata applicata. Negli appalti pubblici ritroviamo sempre l'amministrazione con il RUP, il rappresentante unico del procedimento, e ovviamente le imprese. Questa volta tra di loro, tra il RUP e le imprese, questa volta anche attraverso la struttura commissariale, c'era Rina con il project management che ha seguito tutto il lavoro e ha coordinato il lavoro. Direi che è stato un grande vantaggio, perché abbiamo fatto un planning molto preciso, molto dettagliato, che ci ha permesso di lavorare nonostante le difficoltà che normali, direi, ma che ci sono state, qualcuna anche non troppo normale, l'ultimo è stato il Covid, ma direi siamo riusciti con una pianificazione molto precisa e un project management molto preciso a fare continuare i lavori. Non ci siamo mai fermati, come ha detto lei. In realtà ci siamo fermati un giorno, il giorno di Natale del 2019, per permettere a tutti i lavoratori di festeggiare il Natale, ma abbiamo lavorato 7 giorni su 7, 24 su 24. Allora, noi seguiremo poi con dirette e programmi il 3 agosto l'inaugurazione, ma mi dica una cosa, perché ho un minuto, se dovesse spiegare a un ragazzo, un bambino, a un ragazzo, con un titolo, che cosa è stato il metodo Ponte Morandi? L'affido diretto, che in questo caso però non si può sempre fare, oppure che cosa? Una chiarezza nel coordinamento? Cioè, qual è stato il segreto per un rispetto dei tempi così, così totale? È stato il planning, è stato il management di tutte le situazioni, è stato prevedere in anticipo i possibili scenari e studiarli e trovare le soluzioni, e tutto quello che è accaduto nel massimo possibile è stato in qualche modo previsto, pianificato, gestito, e quindi tutti gli stakeholders di questa operazione hanno lavorato al meglio, sapendo esattamente cosa fare, quando fare, entro quando fare. E diciamo, abbiamo utilizzato quella che si chiama la best option methods, cioè sostanzialmente definendo esattamente quello che era il target finale temporale, abbiamo di volta in volta modificato tutte le azioni, ma sempre mantenendo il target finale. E questo, grosso modo, direi che ormai ci siamo riusciti. Ma infatti vanno a lei come Rina, ma anche a Italfer, a Serenin Pregiulio e Fincantieri, i miei, immagino anche quelli degli ascoltatori, complimenti. Ringrazio, e poi appunto seguiremo la cerimonia il 3 agosto. Ringrazio Roberto Carpaneto, amministratore delegato di Rina Consulting. È veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.